ci troverà. Siamo sempre tutti in viaggio, sempre un po' di più. Se tu non ci sei mai e mi lasci solo qui, e non mi fermerò e tornerò da te. Se qualcuno arriva e nessuno sa perché, nel frattempo da lontano si vede un uomo che viene qui. Qui se nessuno arriva e ci troverà. Siamo sempre tutti in viaggio e qualcuno no. E davanti un sentiero sta sempre più vicino. Qui se qualcuno arriva e nessuno sa perché, nel frattempo da lontano si vede un uomo che si avvicina, che si avvicina a noi. Mi racconta un po' di lui mentre attraversava il mare sotto piogge e tempeste e non si fermava. Se qualcuno arriva e nessuno sa perché,